Rogers was just sentite, d'ora in avanti niente più Guns N' Roses e Soup Dragons, capito? Vi voglio a dieta stretta di Soul, James Brown a colazione, Otis Redding a pranzo, Smokey Robinson a cena e Aretha per gli spuntini fuori pasto. Il Soul ha il ritmo del sesso e anche il ritmo della fabbrica, ha il ritmo dell'operaio, del sesso e della fabbrica. Il soul è musica che il popolo capisce. Certo, è musica semplice, ma ha qualcos'altro, qualcosa di speciale. È onesta, ecco, è sincera. Non è musica stronza. Ha il coraggio di dire che viene tutto dal cuore. Certo, c'è un sacco di musica che dà piacere, ma il soul dà più di questo. Il soul ti porta lontano, ti afferra per le palle e ti tira fuori dalla merda. Ciao a tutti e a tutte, bentrovati dopo qualche settimana di pausa per queste festività a Soul Time, la trasmissione di Radio Wombat che si occupa di musica soul con un particolare occhio di riguardo al Northern Soul. Appunto, qualche settimana di pausa in cui sono arrivati tanti dischi nuovi e in questa puntata ce ne ascolteremo un po'. La collezione vinilica si è allargata. Vi proporrei subito questo gran brano del nostro Francesco Stephen Castelluccio, in arte Frankie Valli, grandissimo cantante statunitense, famoso soprattutto per essere stato il frontman dei Four Seasons, ma per aver inciso anche tantissimi grandi brani durante la sua lunga carriera. Questo brano che mi è arrivato è di Frankie Valli, appunto, con i Four Seasons, grande brano del 1966 su etichetta Smash, che si intitola You're Ready Now. You're ready now, you're ready now, you're ready. When I met you, you were too young to hang around where the hippies hung, to swing and dance where the swingers swung. Well, you're ready now, you're ready now, you're ready now, girl, you're ready now. You grew up fast, like overnight. You have changed, girl, you're out of sight. Good, well, you're ready now, oh, you're ready now, you're ready now, girl, you're ready now. Come on near me, come on, baby, E questo era Frankie Valli and the Four Seasons con il gran brano You're Ready Now. Proseguiamo la nostra selezione con questi nuovi arrivi festivi che il postino ha consegnato prontamente. E proseguiamo con un altro grandissimo brano di un grosso personaggio conosciuto come Willie T, nato Wilson Turbington nel febbraio del 44 e poi scomparso nel 2007. Appunto, Willie T è stato un grandissimo tastierista, cantautore e produttore statunitense, precisamente di New York, che si è occupato principalmente di funk e soul, che ha contribuito a plasmare il sound di New Orleans per più di 4 decenni. Di Willie T vi propongo questo bellissimo brano del 1965. Tra l'altro, ne approfitto per dirvi che durante questa puntata ci ascolteremo questi nuovi arrivi, tutti del periodo degli anni 60. Quindi vi propongo di Willie T questo brano che si intitola Walking Up and One Way Street, è inciso su dischetto Atlantic nel febbraio del 1965. Quindi Willie T, Walking Up a One Way Street. I told you that I loved you time and time again. You got me crying, baby, and my tears are flowing just like rain. Well, I'm all alone in blue as can be, and I'm walking, walking, walking up a one-way street. It don't take much to please me, but every day here lately seems like all you do is tease me. Well, I'm all alone in blue as can be, and I'm walking, walking, walking up a one-way street, yeah. Willie T con Walking Up a One Way Street. Il prossimo brano è di un altro grandissimo gruppo, loro sono gli The Invitation, diventati famosi principalmente grazie alle loro registrazioni soul degli anni 60, e ve ne proporrò proprio una degli anni 60 come quella che ci ascolteremo, che è What's Wrong With Me Baby, ma anche la grandissima Skying in the Snow, stampati per l'etichetta Dynavoice Records, poi più recentemente la loro seconda uscita per l'etichetta MGM come Watch Out Little Girl, è diventata molto molto nota all'interno della scena Northern Soul. Poi, dopo aver diciamo così sciolto il contratto con la MGM, hanno successivamente firmato con l'etichetta Diamond, rilasciando però soltanto un singolo però di eccelsa qualità come Got to Have It Now. Poi nei primi anni 70 l'Invitation passarono all'etichetta Polydor, e verso la fine degli anni 70 lavorarono anche per la Red Greg. Durante la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 il gruppo era regolarmente presente nel Regno Unito, esibendosi per la prima volta sotto il nome d'arte degli American Drifters, prima di tornare al loro nome originario, Invitation, appunto, nei tour successivi. Tornarono nel Regno Unito anche nel 2005 per una data storica, dove si esibirono all'Assembly Rooms Derby. Poi nel 2009 pubblicarono anche un altro album dal titolo Missing You. Io questa sera vi propongo questo grandissimo classico degli Invitation, dal titolo appunto What's Wrong With My Baby, singolo che risale al periodo degli Invitation sotto l'etichetta Dynavoice. Siamo nel 1965 e questa è What's Wrong With My Baby. A fool am I to make you cry when you're the only one I love? No other love could ever make me feel the way you do. I don't know why I make you blue. Something in my soul I don't know how to hide, and girl, I know it makes me cry. I cheat on you, I really do, really do. And even though I feel the pain, girl, I just can't explain the reason why I do the things I always do. Questi erano i The Invitation. Invece poi andiamo a proseguire con i The Coasters, un gruppo vocale rock and roll e rhythm and blues di Los Angeles che è stato molto in voga negli anni 50 e 60, grazie anche alla collaborazione con autori come, uno su tutti, Jerry Leiber e secondo su tutti anche Mike Stroller, ottenendo un ottimo successo discografico durante questo periodo. Originariamente erano noti come i The Robins e firmarono il loro primo contratto discografico con la Spark Records già nel 1954. Nel 55, dopo appunto essersi fatti conoscere con il nome di The Robins, due componenti come Leiber e Strober decisero di lasciare la Spark Records in cambio di un'offerta dell'Atlantic Records. Leiber e Strober proposero a tutto il gruppo di unirsi a questa nuova avventura sotto l'egidia dell'Atlantic, ma quattro membri della band declinarono. Soltanto Carl Gardner e Bobby Nunn si unirono al duo e in più si aggiunsero Leon Hughes e Billy Guy. Nacquero così i The Coasters. I The Coasters hanno inciso diversi brani di ottima qualità. Un piccolo aneddoto: il regista Quentin Tarantino ha utilizzato un loro pezzo, Down in Mexico, nella colonna sonora del film Grindhouse, A prova di morte. Io questa sera vi faccio ascoltare questo loro brano su etichetta ATCO Records, Atco Records, dal titolo Crazy Baby. Loro sono i The Coasters. Coasters con Crazy Baby. Passiamo con il prossimo brano invece a un autore come Darrell Banks, nato Darrell Eubanks nel 1937, ed era appunto un cantante soul americano nato a Mansfield nell'Ohio, ma cresciuto a Buffalo nello stato di New York. Anche lui, come tantissimi altri, ha iniziato a cantare nelle chiese il gospel, prima di scegliere una carriera nella musica che possiamo definire così profana. Ha firmato fin da giovanissimo un contratto con la Solid Hitbound Production, che pubblicò il suo singolo Open the Door to Your Heart nel 1966, ed è proprio il brano che vi farò ascoltare a breve. Brano scritto da Donny Hebert. Tra l'altro, su questo brano ci fu una lunga polemica e anche una causa legale, in quanto Banks fu accreditato come autore al posto di Hebert, e ne seguì appunto una lunga battaglia legale che tra l'altro poi vinse Hebert. Ma nel frattempo, mentre insomma la polemica tra i due proseguiva anche per vie legali, il singolo scalava le classifiche statunitensi, arrivando addirittura al numero 2 della classifica R&B. Poi la carriera di Darryl Banks proseguì sotto la Atlantic Records, e poi successivamente Banks firmò con la Stax Records, che pubblicò anche un suo album e diverso materiale risalente al 1969 e altri due singoli non ufficiali. Poi nel 1970 Tanta Banks fu ucciso a colpi di arma da fuoco da un poliziotto a Detroit, nel Michigan. Tra l'altro, questo brano di Darrell Banks, perlomeno si parla dell'originale, della stampa originale, nel dicembre del 2014 venne letteralmente preso d'assalto dai collezionisti del Northern Soul, perlomeno i più facoltosi, durante un'asta tenutasi nel Regno Unito, perché era considerata l'unica copia in circolazione ed è stata all'epoca venduta per 14.000 sterline inglesi, all'epoca erano circa 23.000 dollari. Appunto, proprio questo prezzo così elevato perché veniva considerata l'unica copia in circolazione, perché in precedenza si pensava che tutte le versioni originali fossero state distrutte quando l'etichetta rivale EMI ottenne il diritto di rilasciare il singolo. Io ovviamente non vi sto proponendo la copia da 23.000 dollari, ma ce l'ascoltiamo uguale, la musica rimane sempre quella. Ci ascoltiamo Darrell Banks con uno dei suoi primissimi singoli. Gran pezzo anche questo con Open the Door to Your Heart. Proseguiamo a dritto. Dopo Darrell Banks, vi propongo questo brano del 1966, come vi ho già detto in precedenza. Durante questo periodo natalizio mi sono arrivati diversi dischi proprio risalenti agli anni 60, principalmente Norden, quindi vi propongo questo 1966 su etichetta Loma. Ci ascoltiamo Larry Lester, il brano si intitola Go For Yourself. Satisfied with yourself. Well, I can love you, please you, and do all the things to please you. But baby, I can't live your life. You got to do it yourself now. Go for yourself now. Make up your mind. Go for yourself now. It pains me to see you when you're feeling this way. I know you never listen to what I say. You're too much in a hurry to live. Siamo ascoltati Larry Lester con Go For Yourself. Proseguiamo con il prossimo pezzo e ci portiamo nelle atmosfere di Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Mitch Ryder è artista molto molto importante nella storia in generale della musica statunitense, che ha registrato più di 2 dozzine di album in più di 4 decenni, una carriera molto longeva, ed è tuttora in attività. Ryder noto per il suo particolare timbro vocale e per le sue esibizioni sul palco molto molto dinamiche. Mitch Ryder è stato influenzato da suo padre, anch'esso musicista. Fin da giovanissimo, da adolescente, Ryder ha iniziato subito a cantare musica soul, musica soul in un gruppo noto come i The Peps. Ma appunto le animosità razziali dell'epoca negli Stati Uniti gli hanno impedito, o hanno comunque interferito con la sua presenza continua del gruppo, in quanto Mitch Ryder, appunto, cantante bianco all'interno di un gruppo nero. Ma Ryder non si è mai lasciato scoraggiare da queste dinamiche, anzi tuttora si esibisce ed ha registrato nel corso della sua carriera tantissimi bellissimi singoli legati all'R&B e al soul, ma non disdegnando neanche il rock and roll, arrivando a incidere brani anche dalla forte influenza dell'hard rock. Ryder, tra l'altro, viene considerato anche dagli appassionati del rock and roll come probabilmente l'eroe non celebrato proprio del rock and roll del Michigan. Poi Ryder si ritirerà dall'attività musicale per problemi di gola e si trasferì in Colorado, riprendendo comunque a scrivere musica e a dipingere. Ma nel 1983 tornò con un album prodotto da da John Mellencamp, intitolato Never Make a Sleeping Dog. Ci andiamo ad ascoltare questo brano di Mitch Ryder and the Detroit Wheels, che gli appassionati sicuramente conosceranno. Il brano si intitola Breakout, che dà poi il titolo all'omonimo album del 1966, distribuito dalla Bell Records. Questa è Breakout, lui è Mitch Ryder, accompagnato dai Detroit Wheels. Just pushing us around. Yeah, treating us like we're nothing and always putting us down. Say, I ain't no fool and I ain't gonna let them treat us this way. Ryder and Detroit Wheels con Breakout, eccolo qua, perfetto. Stavo preparando il brano successivo, che ascolteremo, eseguito dalle The Apollas, nate originariamente a Los Angeles in California nel 1961. Le Apollos avranno una storia e tantissimi cambi di formazione, cambi che poi porteranno tra il 1963 e il 1964 una line-up quasi completamente differente, e anche a un cambio del nome del gruppo, inizialmente come Leola and Lovejoys e successivamente The Lovejoys. Quindi le Apollos possono essere considerate il primo nucleo di quelle che poi successivamente appunto saranno le Lovejoys. Delle Apollos, su questa etichetta arancione Warner Bros. Records, ci ascoltiamo questo gran brano del 1967 che si intitola Mr. Creator. Loro sono le The Apollos. Missing one simple task is all that I ask. Mr. Creator, don't you forget about me. Review my case and you'll find an emergency. This old heart of mine needs a fixing. Just someone to love is all that's missing. See what you can do. I'm depending on delle Apollos con Mr. Creator. Allora, due secondi, eccolo qua, perfetto, è pronto il prossimo pezzo che è di Ben Hyken, che si intitola Satisfied, brano che si trova sul lato B di questo disco, Loma, lato B, su cui disco su cui sul lato A si trova Life of a Clown. E vi propongo il B-side con Satisfied, con questo brano inciso nel novembre del 1967. Ben Hyken, Satisfied. Everything is alright. F-I-E-D. Suck it to me, baby. Oh yes. Ooh yeah. Satisfied. Ooh, baby, you've been so good to me. And everything a precious love should be. There's sweet contentment in your love so true. Ooh. Hold my hand and it shakes me. Come on, to your world, sweet love, take me. Take me. Satisfied. Allora, la puntata sta per concludersi, il tempo a disposizione di Soul Time è quasi finito. Ci rimane il tempo per un ultimo brano ed un'ultima importante figura per quanto riguarda la musica soul. Lui è Herbie Goins, nato nel 39 e scomparso in Italia nel 2015. Infatti Herbie Goins visse a lungo proprio in Italia, principalmente a Sezze, cittadina di Sezze nel Lazio. Ha lavorato principalmente però in Inghilterra durante gli anni 60, in particolare con Alexis Corner e poi come leader proprio del gruppo chiamato Herbie Goins and the Night Timers. Nato e cresciuto ad Ocala in Florida, iniziò a cantare anche lui nella chiesa locale fin da bambino, prima di formare il suo primo gruppo blues, i The Tin Ten Kings. In seguito poi si trasferì a New York e continuò la sua carriera di cantante, aprendo spettacoli come per autori e musicisti come B.B. King, Bobby Bland e Sam Cooke. Poi verso la fine degli anni 50, purtroppo per lui, fu arruolato nell'esercito degli Stati Uniti, lavorando nel corpo medico in Germania, tra l'altro con un certo Edwin Starr. Poi, dopo aver lasciato l'esercito, finalmente si unì alla band guidata da Eric Delaney, con il quale si recò in Inghilterra, unendosi poi alla Chris Barber Band per un piccolo periodo prima, verso la fine del 1963, diventando il cantante principale della band The Blues Incorporated. Poi nel febbraio del 64 ha cantato nell'album Blues Incorporated Live at the Cavern e più tardi nell'album Red Hot from Alex, accanto a musicisti come Dick Extall Smith, Danny Thompson e Art Theman. Quindi dopo questi cenni molto rapidi, molto fugaci, in realtà ci sarebbe da parlare a lungo della figura di Herbie Goins, io vi lascio con quest'ultimo brano, brano famosissimo, che si intitola Number One in Your Heart, che risale proprio al 1965 inciso con i The Night Timer, gruppo che si era originariamente formato nel luglio del 1964 e nel quale il nostro Herbie Goins subentrò al cantante principale Ronnie Jones, dopo che quest'ultimo abbandonò la band. Il gruppo tra l'altro guadagnò subito una grandissima reputazione all'epoca, specialmente tra i mods, come una delle band R&B più calde del Regno Unito. Poi nel 66, scusate ho sbagliato data, nel 66 Herbie Goins and the Night Timers registrarono proprio il brano che stiamo per ascoltarci, Number One in Your Heart, scritto da Clyde Wilson e Wilbur Jackson. Quindi stampato su etichetta Parlophone. Quindi vi rinnovo l'appuntamento per mercoledì prossimo alle 19 con Soul Time qui sempre e solo su Radio Wombat. E vi ricordo che poi potete anche ascoltare i podcast sul sito radiowombat.noblogs.org. Solitamente lo pubblico uno, due, massimo tre giorni dopo il mercoledì della andata in onda. Io vi saluto, ci risentiamo per chi vorrà mercoledì prossimo alle 19 su Radio Wombat. Vi saluto con Number One in Your Heart.